Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Manuale di omosessualità di Progetto Gay. Capitolo 8. Educazione sessuale gay. Questo capitolo è dedicato alla educazione sessuale, con particolare riguardo all'educazione sessuale dei ragazzi gay. Tutta l'educazione, in particolare l'educazione sessuale, mira a trasmettere sistemi di valori e a distinguere tra giusto e sbagliato, morale o immorale, normale e non normale. Si tratta in fondo di modi diversi per distinguere ciò che va bene da ciò che non va bene. Userò qui le categorie di normale e di non normale. Prima dell'educazione sessuale in senso stretto, c'è una fase di acquisizione di concetti che saranno assunti come postulati fondamentali, come strutture ovvie e indiscutibili della società, e in questo senso saranno considerati normali. Questa fase comincia prestissimo. I contenuti trasmessi comprendono la differenza tra maschietto e femminuccia, i comportamenti assunti come tipici del maschietto e della femminuccia, l'idea di famiglia come papà, mamma e bambini, e anche l'idea di coppia. Ed è proprio attraverso l'acquisizione del concetto di coppia eterosessuale come cosa normale che comincia la discriminazione dell'omosessualità. Le coppie che compaiono nei fumetti di Walt Disney sono sempre eterosessuali. Paperino e Paperina, Topolino e Minnie, Orazio e Clarabella, eccetera, eccetera. E le coppie sono presentate insistendo sugli atteggiamenti diversi del maschio e della femmina. Paperina è civettuola e vanitosa, Paperino è confusionario e maldestro. Minnie è attenta alla bellezza e alla cura di sé, Topolino si preoccupa di indagare e di risolvere casi polizieschi, ma immancabilmente Paperino è innamorato di Paperina e Topolino di Minnie. Il bambino, ben prima di essere in grado di capire che cos'è un innamoramento, assimila che è normale e ovvio che si costituisca una coppia formata da un maschietto e da una femminuccia. Questi messaggi, subliminali e martellanti nello stesso tempo, costituiscono una sostanziale spinta educativa non alla eterosessualità in sé, ma a considerare normale l'eterosessualità ben prima di sapere di che cosa si tratti. La trasmissione di messaggi che sottolineano la normalità dell'eterosessualità prosegue fino all'età adulta attraverso molte strade. Chi ha fra le mani un libro di scuola che parli di letteratura noterà che il punto di vista del libro, pur avendo tutta l'apparenza dell'oggettività, è nella totalità dei casi il tipico punto di vista etero. Basti il fatto che le storie d'amore di cui si parla sono, salvo rarissime eccezioni, storie eterosessuali, e nei rarissimi casi in cui si fa cenno di storie a sfondo omosessuale, che pure nel mondo antico non erano rarissime e quindi non possono essere omesse al 100%, il modo di affrontare l'argomento è sostanzialmente diverso da quello adottato per descrivere le storie eterosessuali. Gli esempi di coppie di amanti celebri come Paolo e Francesca, Abelardo ed Eloise, Lancillotto e Ginevra e Giugiù fino a Renzo e Lucia e ai contemporanei sono sempre costituiti da coppie eterosessuali. Anche in televisione si rappresentano in pratica solo storie d'amore o di passione etero. L'apparire di serie televisive centrate sull'omosessualità, come il celeberrimo Queer as Folks, costituisce un evento di cui si parla per mesi proprio perché è assolutamente eccezionale. E bisogna tenere presente che in queste serie l'omosessualità è rappresentata come un fenomeno sociale a sé, perfettamente strutturato e sostanzialmente a parte rispetto all'ordinario mondo etero. Della realtà gay non si sottolinea la normalità, ma lo stereotipo, cioè si presenta come realtà gay non la realtà gay nella sua complessità e nella sua ordinarietà, ma una particolare realtà gay oggettivamente molto di nicchia e molto ritualizzata. In buona sostanza, data la generale invisibilità del mondo gay ampiamente maggioritario, cioè dei gay non dichiarati, le immagini dell'omosessualità che è possibile trovare nel cinema, nella televisione o nei fumetti dove cominciano timidamente a comparire sono solo quelle del mondo gay visibile, con i suoi riti collettivi e i suoi stereotipi. Sono cioè immagini del tutto fuorvianti che per esigenze di spettacolo sono presentate con toni esasperati. I gay non sono quasi mai rappresentati come persone normali che si incontrano nella vita di tutti i giorni. Salvo rarissime eccezioni, l'idea della presenza gay nella società come componente normale della società stessa ancora non trova spazio nel cinema e nella letteratura. Le immagini usate nella pubblicità sono spesso piene di allusioni sessuali, anche molto esplicite, e si tratta nella quasi totalità di allusioni all'eros etero. Le rarissime immagini che alludono a coppie gay o a contenuti riferibili all'omosessualità sono spesso causa di scandalo e vengono ricordate soprattutto per la loro eccezionalità e per le polemiche che hanno suscitato. Anche lo sport contribuisce a sottolineare l'idea della eterosessualità come normalità e quindi della omosessualità come devianza. Le discussioni sulla presenza o meno di calciatori gay nella nazionale o in altre squadre sono molto indicative di questa tendenza. Gli allenatori e i giocatori si affrettano a sottolineare che nelle loro squadre non ci sono gay, il che è come dire che non ci sono casi patologici e che tutto è normale. Gli atteggiamenti di totale chiusura della Chiesa cattolica rispetto all'omosessualità sono ben noti. La Chiesa non si limita a ribadire la centralità della coppia eterosessuale, ma si spinge ad una condanna pregiudiziale senza appello nei confronti dell'omosessualità. I documenti ufficiali della Chiesa, al di là di estemporanee interviste dai toni apparentemente concilianti, sono e restano tra le manifestazioni di più radicale intolleranza verso l'omosessualità. Si potrebbe obiettare che le serie televisive, i fumetti, gli atteggiamenti della Chiesa o quelli del mondo dello sport non sono vere forme di educazione sessuale. Resta comunque il fatto che tutti o quasi i messaggi cui sono sottoposti i ragazzi che crescono, messaggi dotati di un potere comunicativo ben superiore a quello di qualunque forma di educazione sessuale classica, contengono ripetute e concordanti sottolineature della normalità della eterosessualità e quindi della non normalità dell'omosessualità. La condanna dell'omosessualità è implicita, ma è ed è recepita come nettissima. Va aggiunto che in tutto questo gli atteggiamenti e le attese della famiglia hanno un peso enorme. I genitori molto difficilmente si preoccupano dell'eventualità che il figlio possa essere gay e si comportano con lui dando assolutamente per scontato che stanno trattando con un ragazzo etero e quindi si credono sempre legittimati a proiettare nel figlio le loro aspettative e a orientarlo nella direzione che in buona fede ritengono migliore per il figlio. La sessualità, tutta la sessualità, risente ancora di una categoria di origine religiosa, cioè dell'idea di tabù, di proibito e quindi di trasgressivo. Della sessualità si può anche parlare, ma sempre in termini generali, per categorie, mai in modo esplicito con riferimento a sé. La sessualità, in altri termini, non è considerata un argomento normale di conversazione. È qualcosa che va omesso, quantomeno per buona educazione. È estremamente significativa, a questo proposito, l'idea che si possa creare uno scandalo mettendo in piazza la sessualità di una persona quando quella sessualità risulta non normale, in particolare quando si tratta di tradimenti coniugali o di omosessualità. Naturalmente i ragazzi, col maturare, si vanno formando via via un'idea della sessualità e, se sono gay, specificamente della omosessualità, che si distacca progressivamente dai concetti appresi in via subliminale nell'infanzia e nell'adolescenza. In altri termini, con l'andare degli anni, si aprono gli occhi e ci si rende conto che la realtà della sessualità in generale è molto diversa dai modelli ideali, che il modello di matrimonio come unione amorosa naturale di un uomo e di una donna, quando è calato nella realtà, dimostra tutta la sua fragilità, tanto che in Italia la maggioranza dei matrimoni non regge al passare del tempo e che per quanto riguarda l'omosessualità in particolare, la realtà è totalmente diversa da come viene rappresentata. Il peso di Internet in questa presa di coscienza può essere determinante. È molto più facile parlare seriamente senza tabù di sessualità con un 35-40enne che con un ragazzo di 18-20 anni, che è ancora profondamente condizionato dai modelli comportamentali e di interpretazione di origine esterna. Ci sono ancora oggi parecchi ragazzi ventenni che non hanno un'idea realistica di come gli altri vivano la sessualità. Aggiungo che ci sono ragazzi ventenni letteralmente terrorizzati dall'idea che qualcosa della loro sessualità possa trapelare ai loro genitori. In certi ambienti, ancora oggi, i ragazzi gay subiscono delle vere forme di violenta repressione, che li induce purtroppo a fare scelte che nel tempo si dimostreranno devastanti per la loro vita affettiva e per il loro equilibrio personale. Mi capita di parlare con ragazzi di oltre 20 anni che non hanno mai avuto prima nessuna possibilità di parlare seriamente della loro sessualità. Parlare con questi ragazzi permette di capire la profondità del loro disagio e la necessità che hanno di essere rassicurati e di poter guardare il futuro con una speranza concreta. Per uscire da certi ambienti e guadagnarsi una vera autonomia ci vuole uno sforzo enorme. E questi ragazzi sono spesso del tutto abbandonati a se stessi e scoraggiati in ogni loro tentativo di emanciparsi e di costruirsi una prospettiva migliore. Molto spesso le famiglie sono assolutamente incapaci di rendersi conto delle difficoltà dei figli o sono portate a considerare prioritario che si segua il modo di vivere tradizionale per mantenere una onorabilità almeno di facciata davanti alla gente. In certi ambienti ancora oggi un ragazzo ventenne non può permettersi di non avere una ragazza se non vuole essere sostanzialmente emarginato. Lo stato di sofferenza provocato da queste situazioni è veramente pesante. Qui non solo non c'è un'educazione sessuale alla libertà e alla responsabilità, ma c'è una vera forma di violenza educativa che non propone ma impone dei modelli coercitivi di comportamento attraverso forme pesantissime di ricatto mascherato. A questo atteggiamento impositivo si contrappone quello di completo disinteresse che invece è caratteristico di ambienti che si ritengono più aperti e liberi. Va sottolineato che per i ragazzi parlare seriamente di sessualità e chiarire i propri dubbi in questa materia è fondamentale e l'assenza di qualsiasi forma di confronto finisce per indurli a cercare risposte lontano dalla dimensione del quotidiano, in ambienti che sembrano i più adatti ad acquisire conoscenze concrete in tema di sessualità e in particolare di omosessualità. Parlo in primo luogo della pornografia, che presenta modelli apparentemente gratificanti e semplici, dotati di una forza di persuasione ben al di là di quella delle parole. Gli atteggiamenti oscurantistici o proibizionistici in tema di sessualità sortiscono effetti esattamente opposti a quelli ipotizzati. Se i genitori, la scuola, la chiesa e l'ambiente sportivo considerano la sessualità un tabù, i ragazzi andranno alla ricerca di spazi in cui poter ottenere informazioni in modo chiaro e addirittura in cui vivere le loro prime esperienze attraverso Internet, in primo luogo attraverso la pornografia e poi attraverso le chat erotiche e i siti di incontri. L'enorme numero di persone che utilizzano questi siti è in buona parte conseguenza di un'educazione sessuale del tutto assente a livello familiare o scolastico. Negli anni passati, la pornografia in Internet si presentava con criteri di forte aggressività e in forme molto stereotipate. L'accesso ai siti era in genere a pagamento e la presenza di dialer per addebitare all'utente spese telefoniche molto alte era un deterrente che aiutava a tenere la grande maggioranza dei ragazzi fuori da questi ambienti. Oggi le cose sono cambiate. I siti porno gratuiti che si finanziano esclusivamente con la pubblicità a tema sono molti e recentemente si stanno diffondendo i blog creati da singoli utenti per raccogliere foto dal web e ripubblicarle. È il fenomeno del reblogging, che ha un particolare significato quando si parla di siti erotici. Qui non si tratta esplicitamente di pornografia, ma di contenuti attenenti alla sessualità anche in modo più largo, come foto di nudo o candid con qualche interesse sessuale. Il reblogging ha portato alla creazione di siti che ormai della vecchia pornografia pesante presente su internet anni fa hanno decisamente ben poco. Sono gestiti con buon gusto, alcune volte non hanno finalità commerciali e non c'è da meravigliarsi che abbiano un pubblico in progressivo aumento. Anche questi blog a tema erotico però presentano inevitabilmente dei modelli di comportamento. La pornografia e oggi anche il reblogging di contenuti erotici costituiscono per parecchi ragazzi il modello sessuale di riferimento, in qualche modo la vera educazione sessuale. Va tenuto presente che l'approccio dei ragazzi con la pornografia è molto precoce e che in genere il primo contatto avviene tra i 13 e i 14 anni, proprio in un'età che è estremamente recettiva rispetto ai contenuti attinenti alla sessualità. L'uso della pornografia è strettamente connesso con la masturbazione ed è soprattutto per i ragazzi etero argomento di discussione con i coetanei. Per loro parlare di queste cose con i loro amici è comunque possibile e non rischioso. Per i ragazzi gay, invece, è facile rendersi conto dai discorsi degli altri ragazzi che la sessualità di quei ragazzi è un'altra ed è facile dedurne l'errata conclusione che nella propria sessualità c'è qualcosa di sbagliato. Per un ragazzo etero, i messaggi provenienti dalla pornografia sono filtrati attraverso i discorsi fatti con gli amici ed hanno quindi una valenza meno importante che per i ragazzi gay, che su quegli argomenti non hanno in genere una possibilità di confronto interpersonale. Aggiungo che i primi rapporti sessuali dei ragazzi etero sono in genere notevolmente più anticipati dei primi rapporti dei ragazzi gay e si presentano come una specie di patente da adulto. Per i ragazzi gay, invece, la masturbazione sulla base della pornografia sostituisce la sessualità vissuta con persone reali per periodi molto lunghi e finisce per consolidare i modelli offerti dalla pornografia. In contesti sociali come quello italiano, in cui domina il moralismo e in cui il sesso è il tabù educativo più diffuso e radicato, non esiste alcuna forma minimamente seria di educazione sessuale impartita attraverso canali istituzionali e laici, cioè non affetti da pregiudizi di origine religiosa. Il che significa che l'educazione sessuale dei ragazzi è pressoché totalmente delegata o alla Chiesa o alla pornografia. Pur essendo ancora significativo in parecchi casi il peso condizionante dell'educazione impartita dalla Chiesa, l'elemento che domina realmente l'educazione sessuale dei ragazzi nell'Italia di oggi è certamente la pornografia. Dato che alla pornografia è affidato di fatto un compito educativo così delicato, chiediamoci se essa sia in grado di assolverlo, rappresentando realmente in modo esplicito la sessualità gay così come essa è realmente vissuta, oppure se se ne discosti in modo sostanziale, e in particolare chiediamoci se e come la pornografia gay influenzi la vera sessualità dei gay, al di là del fatto che essa la rappresenti più o meno correttamente. Per cercare una risposta a queste domande è necessario tenere conto che in tempi passati la distinzione tra etero e gay era molto meno netta di quanto è oggi. E molti uomini eterosessuali avevano, talvolta e non raramente, rapporti con gay che, non trovando alcuna possibilità di realizzare un rapporto gay-gay, si accontentavano di un rapporto con un uomo etero. Questi rapporti, i cosiddetti rapporti etero-gay, erano totalmente modellati sulla sessualità etero e prevedevano che il ruolo virile fosse totale appannaggio del maschio dominante, cioè del maschio etero. Per ruolo virile si intende il ruolo di colui che è attivo nella penetrazione anale e che presta il proprio sesso alle attenzioni dell'altro nel rapporto orale. Ovviamente al gay spettano i ruoli complementari, quelli femminili. I rapporti etero-gay sono stati una realtà frequente fino agli anni 60 del Novecento. Nei rapporti etero-gay i ruoli sono fissi, il maschio etero è attivo e il gay è passivo. Ma aggiungo un'altra osservazione. In questa concezione della sessualità, il rapporto sessuale è finalizzato alla penetrazione anale, che appare come l'elemento più importante e conclusivo del rapporto. Il resto è visto soltanto come una preparazione. Spesso il maschio dominante, in una relazione etero-gay, non era dominante solo dal punto di vista sessuale, ma anche dal punto di vista sociale, il che sottolineava la radicale dissimmetria del rapporto, spesso vissuto da tutte e due le parti come un rapporto di dominio-sottomissione. Questi aspetti di potere legittimavano ancora di più agli occhi dei maschi eterodominanti il rapporto sessuale con un gay. Va tenuto presente che spesso i maschi borghesi si sposavano per ragioni esclusivamente patrimoniali e di casta con donne non scelte da loro e vivevano quindi una sessualità matrimoniale frustrante. Per questa ragione la prostituzione era un fenomeno diffusissimo e le prostitute, normalmente di classe sociale bassa, consentivano al maschio borghese di sfogare il suo desiderio di dominio più che di sesso. Meccanismi dello stesso genere si ritrovano anche nei rapporti eterogay, in cui normalmente il maschio dominante compensava il gay per il suo ruolo passivo con denaro o con altri regali, rimarcando così il ruolo di subordinazione del gay. In passato, almeno fino agli anni 50 del Novecento, le pubblicazioni pornografiche gay erano costose, non facili da trovare, ed erano dirette soprattutto a borghesi eterosessuali che vivevano a livello di trasgressione rapporti etero-gay con ragazzi gay di estrazione popolare. In realtà di questo genere, la cosiddetta pornografia gay era in realtà rivolta a maschi etero e tendeva ad enfatizzare i modelli di comportamento sessuale del rapporto etero-gay. In questo modo tra gli anni 30 e 40 si accreditò il tipico modello etero-gay come modello di rapporto omosessuale. Quel modello, l'unico sponsorizzato dalla pornografia, finì per affermarsi e per essere considerato dagli stessi gay come il loro modello di comportamento sessuale. A partire dalla fine degli anni 60 del Novecento, quando i gay cominciarono ad avere una certa visibilità, i gay, in alcuni casi almeno, ebbero la possibilità di vivere non soltanto dei rapporti etero-gay, in cui erano inevitabilmente destinati a un ruolo passivo, ma per la prima volta dei rapporti gay-gay. In una prima fase, attualmente non del tutto conclusa, il modello etero-gay imposto dalla pornografia ha continuato a dominare la scena, importando nel rapporto gay-gay il binomio attivo-passivo. In questo caso, però, anche il ruolo attivo è ricoperto da un gay. Tuttavia, nei rapporti gay-gay cominciò ad apparire una novità che marcava una forte differenza rispetto al rapporto etero-gay. Nel rapporto gay-gay, pur sussistendo ancora le categorie di attivo e di passivo, i ruoli non erano fissi, o almeno non lo erano in modo rigido, anche se la penetrazione anale continuava ad essere considerata la vera finalità del rapporto. In anni recenti, anni 90, inizio del XXI secolo, dopo l'avvento di Internet, per molti gay la possibilità di venire a contatto con altri gay è divenuta una realtà e questo ha favorito un dialogo, un confronto tra gay e ha lentamente ma inesorabilmente eroso la solidità del modello di sessualità tra gay ereditato dal vecchio modello etero-gay. Nei colloqui in chat con ragazzi gay di età diverse si avverte che, man mano che ci si sposta verso le classi di età più giovane, la sessualità gay-gay è intesa e vissuta in modo sempre meno legata ai vecchi modelli. Aggiungo un'ulteriore osservazione. La sessualità sul modello etero-gay resiste soprattutto tra ragazzi che sono stati fortemente condizionati dalla pornografia e che non hanno avuto modo di confrontare la propria sessualità con quella di altri ragazzi gay. Mentre per i ragazzi che hanno avuto un'educazione sessuale più libera e hanno potuto parlare della loro sessualità con altri ragazzi, la vita sessuale reale è di fatto pressoché totalmente staccata dal modello etero-gay e si orienta tendenzialmente verso un modello di sessualità gay-gay basato sul principio di parità. Cercherò ora di delineare come intendono la sessualità molti gay giovani, diciamo al di sotto dei 30 anni. Per un gay, la penetrazione anale è in assoluto il comportamento sessuale più a rischio per la trasmissione del virus HIV. Questo fatto, associato a ragioni di carattere igienico generale, spinge i gay più giovani a non considerare la penetrazione anale un comportamento sessuale desiderabile. Osservo per inciso che nelle fantasie masturbatorie di tutti i ragazzi gay rientra l'idea di masturbare il compagno, di praticargli sesso orale o di farsi praticare sesso orale da lui, mentre le fantasie riguardanti la penetrazione sono decisamente meno comuni. La sessualità dei ragazzi gay più giovani, parlo soprattutto di ragazzi non dichiarati e meno legati al mondo dei locali gay, tende quindi ad essere una sessualità che prescinde dalla penetrazione, che anzi è recepita spesso come una realtà importata dal mondo etero e non spontaneamente gay. Nei casi in cui la penetrazione è praticata, i ruoli non sono comunque fissi o non lo sono in modo assoluto, segno questo, nonostante la permanenza della penetrazione, di una parità o di una tendenziale parità all'interno della coppia. Detto questo, con tutte le riserve del caso, provo a sintetizzare il senso della parità all'interno di un rapporto gay-gay. Una coppia etero è caratterizzata dalla complementarità dei ruoli sessuali che sono anatomicamente e biologicamente definiti. Sono ruoli che caratterizzano in modo sostanziale quel tipo di rapporto. Eterosessualità significa amare il diverso da sé. Una coppia gay è caratterizzata da una identità di ruoli dei due partner. Un ragazzo gay si innamora di un altro ragazzo non perché lo considera il sostituto di una donna, ma proprio perché è un ragazzo, cioè per la sua identità maschile. L'interesse di un ragazzo gay verso il pene del suo compagno è particolarmente forte e il senso di identità e quasi diffusione personale che si prova nel contatto sessuale è legato al fatto che ciascuno dei due conosce perfettamente la risposta sessuale e fisiologica dell'altro perché si tratta di due ragazzi. Date queste premesse è facile capire che un rapporto basato sul concetto di parità è tendenzialmente incompatibile con l'assunzione di ruoli sessuali ed è assolutamente incompatibile con l'idea di ruoli sessuali fissi. La sessualità delle coppie gay giovani tende a non essere più un'imitazione della pornografia, ma a realizzarsi attraverso comportamenti sessuali diluiti che consistono di diversi elementi legati soprattutto all'intimità fisica, non immediatamente sessuale, e alle cosiddette coccole. Abitudine alla reciproca nudità, stare nudi insieme, abbracciarsi nudo contro nudo e rimanere abbracciati per diversi minuti, accarezzarsi, baciarsi, scambiarsi tenerezze, toccarsi intimamente e reciprocamente senza finalità sessuali immediate, rinviare la fase dell'orgasmo, parlare molto mentre si sta abbracciati, prolungare le affettuosità anche nella fase post-orgasmica, addormentandosi uno nelle braccia dell'altro. Come si comprende, questo modello di sessualità gay-gay non ha ormai più nulla a che vedere con i modelli ereditati dalla pornografia. In parte la pornografia più recente sta cercando di adeguarsi ai nuovi modelli di sessualità emergenti, che tuttavia non sono compatibili con i classici standard del film porno. Nonostante questi tentativi di adattamento, la pornografia nel senso classico del termine sta perdendo terreno tra i ragazzi a tutto vantaggio della spontaneità dei comportamenti sessuali. Questa è la voce del progetto. Una voce libera